Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Organizzare e gestire un magazzino, pianificare le scorte e il trasporto dei prodotti, preparare un inventario, sono tutte operazioni che caratterizzano la catena della logistica. Un tempo bastavano pochi semplici strumenti. Oggi però, grazie alle nuove tecnologie, alla robotica e alla digitalizzazione, questi processi stanno progressivamente cambiando. Le novità si riflettono anche sul modo di lavorare, in termini di complessità delle mansioni, di evoluzione delle competenze e di aggiornamento professionale. Che caratteristiche avranno i nuovi operatori logistici e quali le prospettive per le aziende? Di questo si è discusso a Milano nel corso di un convegno che ha fatto il punto sulle nuove frontiere della supply chain e sulle ripercussioni sul sistema produttivo italiano. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E proprio di logistica parleremo oggi, come avete ascoltato dalla nostra scheda iniziale, parleremo di supply chain, di catena logistica, di come tutta questa catena logistica, questo insieme di operazioni che in qualche modo governano il mondo delle merci, sia fondamentale e importante per il mondo produttivo italiano, ma cercheremo anche di capire qual è stata l'evoluzione di questi ultimi anni e quale sarà il peso delle nuove tecnologie all'interno di questo settore. Faremo tutto questo in compagnia del nostro ospite, che è Giuseppe Boschi, presidente onorario della Comunità Italiana dei Professionisti della Logistica, la CSCMP. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a voi. Allora, innanzitutto, che cos'è CSCMP? Sta per Council of Supply Chain Management Professional, è una comunità internazionale costituita negli anni 60 negli Stati Uniti e che conta migliaia di membri in tutto il mondo, e noi abbiamo in Italia, ci siamo collegati 3 anni fa e abbiamo con intento di creare un gruppo sempre più ampio e diversificato di professionisti che avesse però una visione sempre più internazionale rispetto a realtà precedentemente esistenti, certo, in Italia stessa. Facciamo un passo indietro. Che cos'è innanzitutto la catena logistica? Ma la catena logistica, o supply chain come si dice in gergo, è una rete, è un network di organizzazioni che sono coinvolte attraverso collegamenti a monte e a valle nei diversi processi e nelle attività conseguenti che producono valore in termini di prodotti e di servizi per il consumatore finale, per il punto. Ecco, diciamo, detta così, Boschi, sembra quasi una definizione enciclopedica. In soldoni? In soldoni è tutto ciò che partecipa, diciamo, per portare una merce, un servizio, un prodotto da un punto di origine, che può essere un magazzino, ma può essere un centro di produzione, al consumatore finale, cioè a colui che lo utilizza, certo, all'utilizzatore. Quanto è importante per il mondo produttivo e a questo punto anche per il consumatore una catena logistica efficiente? È importante perché diciamo che quanto più efficiente è la catena logistica e tanto migliore sarà il servizio che verrà effettuato nei confronti dell'utilizzatore finale, ma soprattutto sarà sempre più basso possibile il costo totale di tutte le attività logistiche, appunto, viste nel loro complesso, che concorrono, diciamo, a questo risultato finale, perché effettivamente il fondamento di una logistica integrata è proprio quello di essere rappresentato da cercare di minimizzare i costi di tutte le attività che, certo, concorrono a portare valore, cioè eliminare gli sprechi in sostanza e mantenere le attività che producono valore per il consumatore finale. Quindi massima qualità con il minimo sforzo economico, ovviamente, che mi sembra una regola che ormai, sì, sottende qualunque tipo di produzione. Ma com'è cambiata la catena logistica in questi ultimi 30 anni? Quali sono le esigenze di oggi che magari 30 anni fa non esistevano? Diciamo che anni fa si parlava di logistica soprattutto per quanto riguarda il gestore di magazzini, trasporti e poco altro, e non si parlava di quello che è appunto una integrazione di tutte le attività che sono all'interno di una gestione della supply chain, che sono attività molto alte, che vanno dalla previsione della domanda, alla gestione della comunicazione, a tutta la gestione che riguarda per esempio i ritorni, la processazione degli ordini e così via. Quindi è molto più complessa la situazione, perché si è molto più integrata, tant'è vero che attualmente si parla di logistic chain management, o meglio supply chain management, che è proprio questa professionalità dei gestori della supply chain, che diciamo è importante perché le scelte che vengono effettuate in una certa area impattano su tutte le altre aree coinvolte. Certo. Ed è proprio questa potenziale di efficienza in sito della logistica come totalità delle attività che la compongono, che è estremamente elevato questo potenziale di efficienza, per fare in maniera che ogni attività, che ogni singola attività concatenata con quella precedente o successiva nel lungo la catena possa in qualche maniera evitare qualsiasi spreco e produrre. Certo. Come dicevamo prima, il massimo risultato. Ecco, un esempio credo lampante di come si sia evoluta la logistica in questi ultimi anni, credo che sia proprio l'e-commerce. Ci avviciniamo verso il periodo natalizio e ci avviciniamo verso il consueto boom di ordini su internet che hanno bisogno sicuramente di una logistica molto particolare. Esatto, perché è una processazione di un ordine che non arriva più cartaceamente o telefonicamente, ma attraverso queste nuove tecnologie, queste nuove processazioni di ordine che permettono in tempo reale di acquisire e di raccogliere l'ordine in maniera molto efficace, ma soprattutto molto efficiente, e ovviamente per contro tutta la catena fisica a questo punto della gestione di quest'ordine in termini di preparazione del prodotto, del materiale e di consegna al punto finale deve reagire di conseguenza, e qui subentrano tutte quelle che sono le tecnologie che vanno dal miglioramento dell'efficacia, l'efficienza dei magazzini, a quelle che sono diciamo le tracciabilità degli ordini, a cominciare dal momento in cui l'ordine entra all'interno della preparazione fisica fino al momento in cui viene consegnato, e quindi una tracciabilità continua lungo tutta la catena. In ogni momento noi abbiamo sotto gli occhi, no? Certo. Appunto questa tracciabilità, e in qualsiasi momento sappiamo dove si trova il nostro ordine, a che punto è della consegna, e quando sarà consegnato, lo stato dell'ordine, lo stato anche del prodotto, la capacità poi anche di ritornare eventualmente un prodotto deteriorato e così via. Ecco Boschi, proprio qualche giorno fa a Milano la comunità di cui è presidente onorario ha organizzato un convegno sulle nuove frontiere della supply chain e sulle ripercussioni legate al sistema produttivo italiano. Cos'è emerso da questo incontro? È emersa la centralità del cliente come dato qualificante del supply chain management attuale. Diverse aziende, esperienze raccontate da aziende italiane e internazionali hanno messo in evidenza le nuove tecnologie e le soluzioni innovative tipo intelligenza artificiale, robotica e molti altri diciamo strumenti, software. Ovviamente impattano anche sul cambiamento delle competenze delle risorse umane coinvolte, quindi nuovi ruoli, competenze e prospettive per le risorse umane coinvolte. Bene, termina qui anche questo spazio dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Vi ricordo che questa è una produzione realizzata in collaborazione con il Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Vi ricordo anche il nostro indirizzo email, che è container@radio24.it. La nostra trasmissione ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato.